Ad alta voce. Tony Servillo legge Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. L'uscita del padrone dalla stanza da pranzo aveva lasciato come al buio la nidiata dei figli e la stessa donna Vincenza. Per quanto violento, per quanto ingiusto, il padre ha dalla parte sua un'arcana ragione che getta i cuori nello smarrimento. I due più piccoli che si erano aggrappati alla madre piangevano. Degli altri, ciascuno attendeva in silenzio al suo compito di scuola, senza comunicare con i fratelli. Donna Vincenza sgranava lentamente un rosario che aveva ricevuto il giorno delle sue nozze, ma i suoi occhi, fissi nel vuoto, non vedevano Dio. Del resto era dubbio, fra tante fatiche e tante pene, che l'avesse mai visto. Al piano di sopra, Don Sebastiano cercava la sua innocenza tra i rossi volumi degli atti che erano il tessuto della sua vita. Come in una suprema confessione, ella rivedeva se stessa in ciascuno dei tanti anni che aveva trascorso vicino a quell'uomo, e ogni anno, ogni giorno, erano l'atto di accusa che a suo tempo gli avrebbe presentato. L'aveva sposata che aveva 20 anni e lui ne aveva 10 più di lei. L'aveva presa nella casetta de Sabena, dove viveva con sua madre, ed era tanto pura che quando era rimasta incinta credeva che le avrebbero aperto il ventre per estrarre il bambino. Questo ricordo così remoto e perfino ridicolo dopo tutti quei figli che erano venuti le dava una specie di esaltazione. Le sembrava di aver sciupato un dono immenso che quella suprema innocenza le desse anche oggi un diritto di fronte a lui. Dopo, che cosa era avvenuto? Il suo sguardo si posava sulle sue povere forme di donna che a 40 anni era già vecchia, sul suo corpo enorme, sulle ginocchia rigonfie dall'artrite. Solo il viso, la fronte alta e pura, erano rimasti. Ma non era stato sempre così, perché era stata bella, coi suoi capelli biondi di continentale, con le membra agili, con la gioia immensa di vivere che era nella sua natura. Diventando una sanna, aveva dovuto lasciare il costume, e questa era stata l'origine delle sue sventure. Perché non si tratta di cambiare un abito, è tutto un mondo che si accetta con le sue leggi, con le sue persone, con le sue pretese e i suoi pregiudizi, anche in un piccolo borgo come Nuoro. Passando da Sabena a Santa Maria, e non erano che 800 metri di distanza, forse 1 chilometro, era passata da un mondo a un altro, e là egli doveva aiutarla perché lei era povera e sola e tutto la intimidiva. Ricordava la prima volta che era andata in chiesa con sua madre, che il costume aveva mantenuto. Le pareva che tutti la guardassero, che quel povero abito scuro a palline bianche avesse addosso gli occhi di tutti. Aveva detto a Sanna, così chiamava l'uomo che aveva sposato secondo l'uso del tempo, che aveva bisogno di un altro abito, ed egli, tra un atto e l'altro, le aveva risposto: «I denari ci sono, compratelo». Era stato come il primo schiaffo che avesse ricevuto. Come può una giovinetta inesperta prendere i soldi, andare, fare, senza che l'uomo in qualche modo l'aiuti, anche solo a varcare la soglia di casa? «Ho le vene di questa gamba che mi fanno male», gli aveva detto dopo la prima gravidanza. «Chiama il medico, i soldi ci sono», era stata la risposta. Sempre così. Era vero che egli lavorava dalla mattina alla sera, che non si concedeva nessuna gioia, che si coglieva un frutto a Isporosile o a Locoi, non osava mangiarlo, perché doveva portarlo in famiglia. Ma non si poteva lasciare così una donna sull'orlo di un abisso, che tale era per lei la soglia della casa nella quale a poco si andava rinchiudendo. Perché questo appunto avveniva, che giovine ancora e piena di vita non uscisse più, si immergesse in una solitudine disperata, che solo l'immensa cura dei figli e della casa di cui era pur la padrona riusciva a farle sopportare. Ma il peggio era che l'immobilità cominciava a minarle la salute, le si ingrossavano le gambe, si deformava, e così alla naturale timidezza aggiungeva la vergogna di presentarsi al mondo, che è fatto di persone agili e che camminano. Lui l'avrebbe potuta salvare. E lui lo voleva, le dava i denari perché andasse a curarsi. Dove? Come? Con chi? Se le era impossibile varcare la soglia. La fiamma si andava lentamente spegnendo nel focolare. La notte incalzante dissipava i fantasmi che un impeto d'ira aveva evocato dal fondo del cuore, dove stavano celati. Il tempo di odiare sarebbe forse venuto, ma in una famiglia con tanti figli che si devono costruire un destino, che devono sopravvivere, i soliloqui non potevano durare a lungo. Infatti, i due più piccoli, Sebastiano e Peppino, che le erano accorsi piangendo nel momento della furia, si erano addormentati, con la testa nel grembo. Bisognava metterli a letto. Dolcemente li svegliò e ciascuno per mano iniziò la salita di quelle grandiose ed inutili scale che erano l'orgoglio dell'ingegner Manno, di Don Gabriele. Era una pena per le sue povere gambe e doveva ogni tanto fermarsi. Nel passare al secondo piano davanti allo studio vide una luce che filtrava da sotto le porte. Ne rimase come smarrita. Sanna, che andava a letto con le galline perché si alzava prima dell'alba, vegliava ancora. Don Ricciotti passava la vita al caffè Tettamanzi, lo stesso dove suo padre si era giocato tutto il patrimonio. Ma egli non mangiava e non beveva, e tantomeno si lasciava ubriacare da quei falsi signori, come quell'imbecille del maestro Manca. Stava là, quando non era a scuola, perché la casa che gli era rimasta gli riusciva insopportabile, spoglia com'era di tutto, e la vista della moglie spettrale e dei figli che giocavano in mezzo alle immondizie, tali gli parevano i mobili modesti e le poche cose che l'arredavano, gli rendeva l'esistenza insopportabile. Ma poi la sua pena era di quelle che hanno bisogno di testimoni e ancora, soprattutto, bisogno di gente alla quale estendere il suo odio, chiuso nel cuore da tanti anni. Meditava di presentarsi a Don Sebastiano a chiedergli la restituzione di Loreneddu, si intende contro il rimborso del prezzo da lui pagato all'asta 20 anni prima. Qualcosa avrebbe risposto. Intanto se ne stava lì, sulla sedia di ferro dalla quale debordava l'enorme sedere, e fulminava con gli occhi la gente che affollava i tavoli, come in cerca di brighe. Ma nessuno gli dava retta. E chi gli poteva dar retta quando tutti gli avventori facevano circolo intorno a Maestro Manca, con Boelle Zicheri e Paolo Bartolino che lo provocavano per godersi le sue filastrocche, col miraggio di un bicchiere di vino di cui già non poteva più fare a meno. Boelle Zicheri e Paolo Bartolino, se Don Ricciotti gli avesse espresso l'idea di recuperare Loreneddu, cioè di far sì che il fatto non fosse fatto, gli avrebbero riso in faccia, e così tutti quelli che gli facevano corte. Ed avrebbero avuto ragione, a meno di capovolgere il mondo. Boelle, che poi vuol dire Raffaele, e Paolo Bartolino erano i personaggi più cospicui della vita del caffè, perché erano ricchi e, come dimostrava il loro cognome, continentali di origine. Boelle era farmacista, ma questo non vuol dire nulla, perché farmacista era anche il signor Piga, quello della bottega che frequentavano Don Sebastiano e gli altri nobili borghesi, il quale non sapeva far altro che borbottare contro i medici che gli mandavano ricette illeggibili. Nella farmacia di Boelle c'era una vetrina con su scritto a grandi caratteri veleni, e la gente diceva che rinchiudeva là dentro i biglietti da 1000. Paolo Bartolino già lo conosciamo, era quel piemontese o figlio di piemontesi alto 2 metri, di cui qualche vecchio diceva di averlo visto da bambino scalpellare col padre le lastre di granito del corso. Ma se così era, se n'era dimenticato, perché appena aperti gli occhi sulla misera terra sarda si era dato agli appalti e si era fatto la casa in stile veneziano che è attaccata al caffè e sovrasta tutte le altre, ma soprattutto non è triste come quella quasi di rimpetto di Don Sebastiano, perché ha le persiane tinte di rosso e qualche fiore al balcone. scapoli entrambi, avevano il passato avvolto in un'opaca ragnatela di favole, tessuta dalla fantasia dei casti nuoresi e forse più dalle speranze deluse delle nuoresi. Si diceva, ma a bassa voce, che quando venivano giù dalla Toscana i distruttori dei boschi, e Nuoro era appena una lustra, essi tenessero banchetti nelle loro case e si facessero servire da Gigia, tutta nuda, la bellissima donna che ora, ridotta in miseria e mezza pazza, faceva quasi senza accorgersene la prostituta in San Pietro. Correva anche la voce che avessero preso la sifilide, la quale era più un peccato che una malattia. Io credo che fosse vero. Ma adesso il loro teatro era quel caffè dove sfoggiavano la loro maturità e anche la loro superiorità su quelle torme di nuoresi che non avevano una vita da svolgere e con lo sviluppo del paese diventavano sempre più numerosi. Costoro abbandonavano la bettola che i padri continuavano a frequentare perché istintivamente sentivano di nobilitarsi, di cambiare classe, di entrare in un mondo che credevano più decoroso ed era soltanto meno severo e più fatuo. Non c'era dubbio che quei vecchi cellieri o bettole che dir si voglia a fondo cieco coi caratelli poggiati sul cavalletto, l'uomo giallo che apriva e chiudeva la spina di là dal bancone, segnando con un gesso sulle doghe i bicchieri tracannati per fare il conto a sbornia finita, la bandierina stinta che pendeva al sommo della porta, erano come catacombe e le ubriacature che vi si prendevano erano mute e solitarie. Quei padri barbuti andavano e venivano in fila come le formiche, le facce blu di candidati alla cirrosi epatica che ogni anno ne mieteva un paio tra i sogghigni dei superstiti. A notte fatta, l'ultimo barlume di ragione o forse l'istinto li riconduceva a casa camminando di traverso per i viottoli come ciechi. Le mogli sarde sentivano di lontano i passi e i singhiozzi e gli aprivano la porta come infermiere perché il vizio del bere è una disgrazia e le disgrazie bisogna accettarle. Quella sera Maestro Manca faceva le spese della compagnia. Da quando lo abbiamo conosciuto aveva fatto molta strada, in discesa naturalmente. Mezzo bicchiere di vino bastava a ubriacarlo e le mani cominciavano a tremargli. Nei momenti di euforia faceva il gradasso con se stesso. «Io ucciderò il vizio?» gridava in pieno caffè. «Il vizio ucciderà me!» Ma in realtà aveva una terribile paura di morire e poiché gli si era ingrossata la vena della tempia si era messo in mente che quella dovesse rompersi. Di là sarebbe venuta d'un colpo la morte. Perciò andava in giro premendo con le dita la vena tra le risate pazze di tutti. «Maestro, è quella vena?» gli dicevano. E lui, indemoniato, «Mettetegli la faccia nel sedere a quella vena», rispondeva. E le risate si raddoppiavano. In quello sfacelo gli era rimasta la forza comica o quella che appariva comica agli altri e per questo lo ricercavano. Per questo era in mezzo al circolo dei signori del caffè che lo eccitavano a comporre le sue canzoni. Safide la professo, chinduna, timinsana, decusso e zia Tatana faragone. Professo la fede con una damigiana di quello, cioè del vino, di zia Tatana, Sebastiana Faragone, che era la padrona di una delle vigne in collina, sotto Locoi. Inno sacro e blasfemo, come sempre laude di vita che era anche una laude di morte. Boelle, Bartolino, tutta la corte, ridevano a crepapancia. Egli sentiva che non doveva cantare, aveva come un'inconsapevole nostalgia di vita più seria, ma nel fondo aveva paura di tutta quella gente che gli faceva luccicare il bicchiere, come a un bambino. Di quando in quando riconosceva nella folla la faccia di qualche suo antico allievo e allora si fermava di botto, lo apostrofava chiamando a raccolta il padre e il nonno con i nomi più atroci. «Per questo ti ho educato, figlio di bagascia, avanzo di prigione, perché finissi la vita al caffè a ridere del tuo maestro». Ma erano fuochi di paglia che nessuno pigliava sul serio. Del resto, era meglio quel riso incosciente della grinta di Don Ricciotti che sempre nel suo angolo guardava la scena odiando e meditando vendetta. Don Sebastiano, come Don Pasqualino e Don Serafino, non avevano e non avrebbero mai messo piede nel caffè Tettamanzi, ma questo significava soltanto che restavano indietro coi tempi, avvolti nelle loro avare giornate. Come tutte le città che si evolvono, Nuoro produceva ogni giorno più gente che non aveva nulla da fare, o piuttosto non poteva aver qualcosa da fare. Il borgo pastorale continuava a vivere la sua vita tenebrosa a San Pietro. Il borgo contadino di Seuna restava immobile nel suo colore di acqua marina. Costoro non appartenevano più né all'uno né all'altro, e il segno infallibile era che il costume cominciava a sparire. Insignoriccati, come si diceva per chi rinnegava la propria origine, essi erano attratti dal caffè perché nel caffè potevano stare fianco a fianco con Boelle e con Bartolino, con quei tanti avvocati che non avevano mai aperto un codice, di cui Nuoro era piena, e il caffè li aiutava a nascondere la loro miseria. Del resto, nessuno chiedeva conto all'altro del proprio essere. Tra questi novizi era approdato anche quel Pietro Catte che abbiamo conosciuto ragazzo nella scuola di Maestro Mossa, quello, tanto per intenderci, che aveva scambiato i sette colli coi re etruschi. Ora era naturalmente un uomo fatto, corpulento, con l'occhio sempre più bovino. La sua disgrazia era che aveva imparato a leggere e a scrivere, perché lo avevano assunto a un posto di fattorino nella prima corriera che avevano istituito a Nuoro, ed egli si era fatto sorprendere a far viaggiare la gente senza staccare il biglietto. Bah, lo avevano licenziato, e ora, sempre vivendo alle spalle di quella zia, aveva trovato l'unico posto che poteva occupare, cioè il tavolino del caffè. Era rumoroso, scherzoso, e sapeva giocare a 3-7 come nessun altro. Perciò Boelle lo voleva sempre compagno nella partita. Ora ricordo che avevo parlato con lui nel cimitero dove lo avevano sepolto, sebbene fosse finito male. Ma allora era pieno di vita e amava il buon bicchiere quanto Maestro Manca, sebbene sapesse sopportarlo meglio di lui. Sono 2 settimane che ho interrotto il mio racconto. È stato proprio Pietro Catte a fermarmi la penna. La sua figura di monocolo, gonfia di vino, con le labbra tumide, mi si è parata davanti nella sua totale inutilità. Inutile come Boelle, come Bartolino, come Don Sebastiano e Don Pasqualino, come Nuoro intera. È possibile che io perda il tempo, e sia pure questi miei tardi anni, a dare una realtà a persone che realtà non hanno mai avuta né potevano avere, che non possono interessare nessuno perché la loro esistenza si riduce a un atto di nascita e un atto di morte. Ho sofferto terribilmente per questo improvviso vuoto che si è formato intorno a me. Non c'è il minimo dubbio che Pietro Catte, in astratto, non sia una realtà, come non lo è alcun altro uomo su questa terra. Ma il fatto è che egli è nato ed è morto. Lo attestano questi irrefutabili atti. E questo gli dà una realtà nel concreto, perché la nascita e la morte sono i due momenti in cui l'infinito diventa finito, e il finito è il solo modo di essere dell'infinito. Pietro Catte ha tentato di sottrarsi alla realtà, impiccandosi all'albero di Biscollai. Ma la sua è stata una vana speranza, perché non si può annullare il proprio essere nati. Per questo io dico che Pietro Catte, come tutti i miseri personaggi di questo racconto, è importante e deve interessare tutti. Se egli non esiste, nessuno di noi esiste. E lo stesso vale per Fileddu. Fileddu, che poi vuol dire spago, poteva considerarsi come il buffone di quella corte che era il caffè Tettamanzi, per non dire il buffone della più vasta corte di Nuoro. In effetti era un tranquillo demente che aveva concepito l'idea di accompagnarsi ai signori credendosi signore anche lui. La vita è un sogno e non servivano a ridestarlo dal sogno gli ululati e gli sberleffi che lo accoglievano quando si affacciava in cima al corso, uscendo dalla spelonca in cui viveva in condizioni che per gli altri sarebbero state di assoluta miseria. Aveva un andare ondeggiante, forse per qualche difetto di equilibrio, ma vestiva sempre di scuro e con abiti che avrebbero potuto dirsi eleganti se non fossero stati di una taglia quattro volte la sua, mettiamo la taglia di Boelle Zicheri, del quale era il cane fedele. Qualche volta Boelle gli dava l'incarico di mettere i portelloni alle vetrine della farmacia, ma era una scusa per fargli scivolare quattro soldi, perché la fame gli toglieva le forze. C'era qualcuno nell'ombra che prendeva sul serio questa vocazione di signorilità e per questo lo odiava. Mi riferisco specialmente a Casi Zolu, un demente come lui che però si riteneva più sfortunato di lui. Ma i signori del caffè lo accoglievano nel loro circolo e con loro egli poteva interamente vivere il suo sogno. Urlassero pure di fuori, appiattati alle svolte dei vicoli, quei ragazzacci senza arte quando lo vedevano passare. Dring, dring, ombelico da lavamano, che erano due delle infinite apostrofi che il genio paesano del male inventava ogni giorno per la sua tortura. Egli sedeva allo stesso tavolo di Boelle e di Bartolino e stava con loro alla pari, da quel signore che era, ascoltando con gli occhi piccoli le lodi di cui lo colmavano. Erano quelli del caffè, proprio della brava gente. E una sera fu proprio Bartolino, almeno mi pare di ricordare, che diede una gran manata sulle ossa di Fileddu e gli disse: «Ma Francesco», questo era il suo vero nome, un nome sprecato, «tu non puoi vivere così solo. Tu ti devi sposare. Ti troviamo noi la moglie. Tu devi fare la corte a Carolina, la figlia di Don Pasqualino». Risate enormi corsero da un capo all'altro del caffè. Robertino Caramelli, Francesco Casu, Don Gaetano Pilleri smisero di giocare, che è tutto dire, e si avvicinarono al tavolo. Perché bisogna sapere che se Don Pasqualino era il dio di Nuoro, Carolina era una dea del paradiso, tanto era bella nei suoi 18 anni. Anch'essi fecero coro e i cachinni salirono al cielo. Fileddu era entrato nella beatitudine. Quelle risate omeriche gli parevano un segno di amore, come se qualcuno lo spingesse a percorrere strade ignorate. Ma erano poi ignorate? O non avevano pensato sempre a questo matrimonio, un sogno nel sogno, e oggi quei signori gliene avevano dato coscienza? Domani avrebbe cominciato a passare sotto le finestre, avrebbe atteso le sue uscite. E intanto restava incantato fino alla gratitudine, mentre i signori, tutti raccolti intorno a lui, improvvisarono un fidanzamento e fecero portare le paste e il rosolio, che egli bevve ma poco perché il digiuno gli aveva stretto lo stomaco, mentre gli altri alzavano i calici, brindando a Fileddu e Carolina sposi. Tutto sarebbe stato bello se la madre di Fileddu, demente anche lei, sulla strada già percorsa dal freddo, coperta di stracci, non avesse seguito immobile la scena di là dai vetri della porta, con gli occhi bianchi di cieca. Sempre così. Non avrebbe certo osato entrare nel caffè. Aveva paura e rispetto per quei signori, ma nell'istinto avvertiva l'ingiustizia che si consumava là dentro. Sentiva che doveva salvare suo figlio e aspettava per ore che tutti se ne fossero andati per raccogliere questo suo figlio e riportarselo gelosamente nella spelonca, dove l'avrebbe sentito sicuro, almeno fino all'indomani.